è più che una sensazione, è proprio così, è una sensazione condivisa, anche perché a questo punto direi che è oggettivo. È stata molto equilibrata, ha mantenuto il suo percorso di moderazione che è stato piuttosto evidente durante tutta la campagna elettorale, è stato giusto, corretto, nel senso che è riuscita a rassicurare quell'elettorato moderato che diffidava di certi suoi toni troppo aggressivi che aveva avuto in passato e diffidava di una certa matrice estremista della cultura che sarà retrostata Fratelli d'Italia, insomma, che lei stessa aveva espresso più volte e incarnato. Nulla di tutto questo durante la campagna elettorale, e coerentemente con questa moderazione complessiva di questi due mesi anche il discorso di questa notte. Ma io come analista devo proprio dire che è stato un discorso, a perfezione non è della terra, no? Però buono, giusto, efficace, quello che ci voleva, ecco. Quindi, come dire, i suoi destinatari erano solo gli elettori o anche le istituzioni che magari avevano la stessa paura di eccessi da parte di Fratelli d'Italia? No, lei ha parlato a tutti stanotte, lei ha avuto la lucidità di non eccedere in trionfalismo e di parlare a tutti, ha detto subito che se sarà chiamata ha sempre usato le ipotesi, perché ancora i dati erano incerti, anche se molto molto chiari, se no non si sarebbe espressa, ha parlato a tutti, ha detto chiaramente che vorrà essere un governo per tutti gli italiani, sono sempre il plurale maschile, e vabbè, questo e quindi tutti gli italiani e le italiane, aggiungo io, ha parlato di responsabilità, lei si rivolgeva questa notte, si è rivolta a tutti, e quindi la rassicurazione era rivolta a tutta l'Italia, che anche quindi anche coloro che non hanno votato Fratelli d'Italia. Dopodiché ci sono altri diversi ingredienti che ci trovo, insomma, ci ha messo quello che va di moda chiamare storytelling, anche se a me questa espressione non piace perché è abusata, perché ha ripercorso il passato e in che cosa consiste questo storytelling, la storia di Fratelli d'Italia, che da una condizione in cui nessuno credeva loro e tutti non avrebbero scommesso nulla, poi dopo si sono risollevati tenendo duro e a denti stretti sono riusciti in quel che sono riusciti, è una bella storia, no? Quindi è una storia che carica ed è una storia che piace in qualunque ambito, indipendentemente dalla politica e dal partito che si vota, e questo è un punto. Poi c'è stato tutti i ringraziamenti allo staff con i nomi propri, i ringraziamenti alla sua famiglia, ovviamente la famiglia è un valore fondativo per Fratelli d'Italia, ma non ha esagerato neanche con un senso troppo, cioè ha detto i nomi, no? Le persone che dalla mamma alla figlia al compagno e quant'altri, l'ha fatto in modo condivisibile, non secondo quel senso di famiglia che potrebbe essere inteso in modo antico, diciamo così. Quindi un richiamo agli affetti, ma poi ringraziamenti nominando tutte le persone che l'hanno aiutata, ringraziamenti e la lealtà nei confronti degli alleati di schieramento, quindi Lega e Forza Italia, con i nomi anche dei vari leader che hanno condiviso con lei la campagna elettorale. Insomma, era veramente equilibrato, c'erano i toni giusti e gli ingredienti giusti. Questo naturalmente fa parte di quel senso di moderazione complessivo, perché quella moderazione e quell'equilibrio di cui dicevamo all'inizio si compone di tanti tasselli che fanno questo mosaico. Un'ultima domanda, che in realtà sono due. Da un lato, quindi, non è una regola il linguaggio sopra le righe in politica a cui ci siamo abituati questi ultimi tempi, e l'ultima domanda appunto è se Meloni probabilmente manterrà questo stile anche da qui in avanti. È quello che possiamo analizzare di Giorgia Meloni in questo momento, è eminentemente solo comunicazione, perché manca la prova dei fatti ancora, no? Quindi ci sono delle promesse, ci sono delle enunciazioni, ci sono delle speranze. Allora, ci voleva questo in ambito comunicativo? Sì, ci voleva, perché da parte dell'elettorato i toni troppo aggressivi, beh, insomma, c'è stata saturazione rispetto a questi toni. Quindi, al di là della parte da cui potessero provenire questi toni, tant'è vero che un certo estremismo, noi o loro, dalla parte avversa, non ha pagato, non è stato quello che ha convinto, insomma. Quindi, dal punto di vista così, andando a guardare solo gli aspetti della comunicazione, io la mia risposta è sì, c'era una saturazione per risse e aggressività reciproche, vacue, soprattutto in tempi di preoccupazioni che vanno altrove, c'è la guerra, c'è il caro bollette, c'è il gas che non sappiamo se arriverà e quant'altro. Quindi le persone cosa vogliono? Vogliono concretezza e attenzione ai bisogni sempre più preoccupanti che ci sono, e quindi ci vuole moderazione in questo, perché bisogna rassicurare sul fatto che si riuscirà a far fronte ai problemi. Mentre un mese fa per me lo scenario era aperto, giorno dopo giorno verso le elezioni fino a ieri, per me era chiarissimo che dal punto di vista della comunicazione lei era la più brava. Detto questo, poi la comunicazione è necessaria ma non sufficiente, perché poi occorre agire, no? E quindi lì lo staremo a vedere, ma in termini di comunicazione lei ha vinto, non ha solo vinto in termini di elezione, a riprova che, come dire, io lo so per mestiere, senza una buona comunicazione non vai da nessuna parte. Poi non basta, perché bisogna poi fare, no? Però